in primo piano. Mercoledì 20 aprile, tutti i quotidiani mettono in apertura la vicenda del nucleare, lo stop del governo sul nucleare, come titola Il Sole 24 Ore. Ma basta scorgere qualsiasi giornale, il Corriere, il governo rinuncia al nucleare, Repubblica, il governo cancella il nucleare, La Stampa, nucleare stoppa nuove centrali, Il Fatto Quotidiano, nucleare ad personam, Il Messaggero, il governo stoppa il nucleare. Insomma, vedete, è praticamente unanime la scelta, elezioni denuclearizzate per l'Unità. Il Manifesto mette la vignetta di Vauro, c'è Berlusconi tutto vestito come quei tecnici che lavorano a Fukushima. Nucleare italiano, la fuga radioattiva, un Berlusconi che scappa vestito da tecnico che lavora nelle centrali. Le scelte diverse sono del Giornale su Follia a Milano, la vicenda di Lassini che ha fatto un passo indietro dopo i manifesti sulle BR in procura. Mentre Libero insiste la campagna antieuropea, rovinati dall'euro così, per Avvenire la gelata atomica, dunque il nucleare anche per il quotidiano della CEI. Da cosa voglio partire però come segnalazioni? Beh, intanto da una notizia che ha solo il Corriere della Sera a pagina 23. È una notizia firmata anche oggi dai due cronisti di giudiziaria, Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, i due più importanti cronisti di giudiziaria del Corriere. Un sorpasso vietato e Pietro Maso ritorna in cella. Ve lo ricordate? Pietro Maso, certamente, condannato a 30 anni per l'assassinio dei genitori nel 91 a Montecchia di Crosara, in provincia di Verona. Quell'omicidio, duplice omicidio fatto con amici per l'eredità. Era in semi-libertà da un po' di tempo, cioè poteva uscire al mattino, andare a lavorare e tornare alle 22:30 in carcere. Ebbene, è di stato di nuovo recluso perché gli è stata ritirata la patente per un sorpasso azzardato oltre la doppia linea continua, contravvenzione, multa, ritiro della patente, questa tegola, un'infrazione stradale che gli ha fatto riaprire le porte del carcere. Torna in carcere, rischia di perdere la semilibertà alla quale nel 2008 era stato ammesso dopo aver scontato in carcere 17 anni. La valutazione del magistrato di sorveglianza Roberta Cossia: il ritiro della patente è stato provvedimento amministrativo sufficiente a far scattare in via cautelare la sospensione del beneficio a Maso, e ora il tribunale di sorveglianza valuterà se ridargli la semilibertà oppure revocargliela del tutto. Insomma, una vicenda in qualche modo minore, un sorpasso azzardato, ritiro della patente, ma per il giudice questo ha portato a far sospendere per il momento la semilibertà a Pietro Maso. Ora si pronuncerà al tribunale di sorveglianza, potrebbe perdere questo diritto alla semilibertà per un'infrazione grave al codice della strada. Tra l'altro, ricorda il Corriere che tra due anni la pena per Pietro Maso, ripeto, duplice omicidio dei genitori, sarà comunque estinta. Sempre pena giudiziaria invece per un'altra persona che invece è in carcere, Anna Maria Franzoni, in carcere dal 21 maggio del 2008, è condannata a 16 anni per l'omicidio del figlio, è stata condannata nuovamente, ha ottenuto un'altra condanna, un anno e 4 mesi di carcere. Perché? Perché ha calunniato il vicino, aveva incolpato un vicino di casa indicandolo come il possibile autore dell'omicidio per il quale invece è stata condannata lei. E dunque il quotidiano nazionale: Franzoni, altra condanna, calunniò un vicino di casa e si prende un anno e 4 mesi di carcere per la mamma di Cogne. Voglio, visto che c'è tempo, fare un'altra segnalazione molto interessante che trovate su Repubblica. C'è un richiamo in prima pagina firmata da Marco Ansaldo e poi all'interno ci sono 3 pagine nell'inserto culturale, pagina 31, 32 e 33. Il titolo è Il mistero della terza pallottola e si ritorna a indagare in qualche modo o a fare un'inchiesta giornalistica sull'attentato a Papa Wojtyła. Perché? Si parte proprio da qui, dal mistero della terza pallottola. Se solo il Vaticano parlasse, il Santo Padre, quel benedetto uomo, ci nascose la pallottola che gli uomini della sua sicurezza raccolsero sul pianale della Papa Mobile. Noi giudici fummo tenuti all'oscuro di tutto questo per molto tempo, molti anni, eppure si trattava di un elemento unico, determinante ai fini dell'indagine. Così parla Ilario Martel, che fu a condurre, dopo il primo rito per direttissima, la seconda inchiesta giudiziaria dell'atto di terrorismo più eclatante dopo l'omicidio di John Fitzgerald Kennedy, scrive Repubblica. E oggi quel dettaglio ricordato dall'anziano magistrato di 3 colpi sparati, non 2, ma 3 colpi in piazza San Pietro, potrebbe contribuire a alzare il velo sul mistero dell'attentato a Wojtyła. Chi furono i mandanti? Beh, per le inchieste giudiziarie italiane non ci furono i mandanti, o meglio, i mandanti furono gli stessi esecutori, vale a dire i Lupi Grigi, Aliaccià. Ma in realtà in questa inchiesta, che poi si dipana a pagina 32-33, che va a capire come anche si stanno riaprendo gli archivi della vecchia Germania Est, si stanno mettendo insieme dei documenti che la polizia, la Stasi della Germania Est aveva stracciato quando ci fu il crollo del comunismo, ora li stanno rimettendo insieme, stanno cercando di ricostruire. Per esempio c'è questo documento molto interessante ritrovato, nel quale è un documento della polizia della Germania Est, nel quale nel giorno dell'attentato a Papa Wojtyła si parla di un'azione cominciata alle 17:19. Il Papa è stato colpito da 3 pallottole. Questo si legge in un rapporto dei servizi segreti della Germania Est. Insomma, Wojtyła, l'ultima verità sull'attentato, lo trovate su Repubblica con un richiamo in prima pagina e poi all'interno dell'inserto della cultura firmato da Marco Ansaldo. Come detto, l'apertura di tutti i quotidiani è dedicata al fatto che il governo, presentando a sorpresa un emendamento al decreto legge omnibus all'esame al Senato, ha di fatto azzerato il nucleare. Saranno abrogate tutte le norme sulle nuove centrali. Come titola pagina 2 del Sole 24 Ore, ovviamente è l'apertura di tutti i quotidiani che si interrogano sul perché di questa mossa. Beh, intanto può dirci qualcosa il ministro allo sviluppo economico Paolo Romani, che il Sole 24 Ore con Federico Rendina intervista a pagina 2. L'atomo quando vorrà l'Unione Europea, mediazione sul fotovoltaico. Dice Romani, addio a tempi migliori per il nucleare, tornerà solo quando verranno chiarite tutte le conseguenze e le incognite del disastro di Fukushima. Abbiamo scoperto che nelle grandi centrali sono comunque possibili grandi incidenti. E poi apre alle cosiddette rinnovabili, garantiremo al paese un consistente sviluppo dell'energia fotovoltaica in un momento in cui il nucleare ha forti problemi, rendiamo sostenibile la produzione solare adeguando gli incentivi a livelli garantiti dagli altri paesi europei. L'obiettivo è arrivare a 25.000 megawatt installati al 2017, quando la grid parity del fotovoltaico sarà raggiunta e gli incentivi non saranno più necessari. Per questo, dice Romani, da qui al 2016 spenderemo a regime tra i 6 e i 7 miliardi contro gli 11 o 12 miliardi del tendenziale a regole precedenti. E riguarda ancora il nucleare, dice il ministro, quanto alla valenza reale dello stop al nucleare, parliamoci chiaro. Fukushima ci ha mostrato che incidenti rilevanti sono possibili. Lo dico malvolentieri, visto che ero e rimango un nuclearista convinto, un nuclearista che sa benissimo che il nucleare ora non è culturalmente tollerato. Dobbiamo quantomeno riprogrammarlo nel quadro della strategia energetica nazionale. Insomma, rimane però in piedi l'Authority per l'energia presieduta da Umberto Veronesi. Deve lavorare, dice Romani. Beh, ma dove, chiede Federico Rendina? Neanche c'è la sede dell'Authority. Praticamente c'è qui a Roma. Questione di giorni. Così si conclude l'intervista al ministro Romani. Mentre un altro ministro, Altero Matteoli, il ministro alle infrastrutture e trasporti, intervistato a pagina 3 dal Messaggero, dice: questa scelta non mi piace, è comunque una sospensione, non sono contento della decisione, ma il governo è un organo collegiale, ne abbiamo discusso, abbiamo preso questa decisione, ma ripeto, non mi piace. Quindi Matteoli è categorico. Sa di fatto che anche i giornali di centrodestra si interrogano, per esempio anche Il Giornale a pagina 7, che errore la ritirata tattica sul nucleare. In prima pagina c'è centrali nucleari, abbiamo scherzato. C'è poi tutto un giallo, a meno le accuse dell'opposizione, ma anche molti analisti dei quotidiani che dicono: in realtà questa mossa del nucleare è stata fatta per far saltare il referendum promosso Proprio per bocciare il nucleare. E perché, secondo queste letture da retroscena che ci sono sui giornali, il referendum non è solo quello sul nucleare, c'è anche il referendum per esempio sul legittimo impedimento. E secondo la stampa, ecco qui il motivo: il blitz deciso dopo un sondaggio e la paura di favorire il quorum. Il retroscena di Amedeo la mattina, pagina 3, è questo: c'era un sondaggio nelle mani di Berlusconi. Secondo questo sondaggio si parlava di un'affluenza alle urne pari al 60%. Il punto è che questo 60% di italiani che andrebbe a votare per il referendum sul nucleare andrebbe anche a votare per gli altri due referendum in pista, quello sulla gestione privata dell'acqua e quello sul legittimo impedimento, quel legittimo impedimento che il Premier ha voluto per non essere obbligato a presentarsi all'udienza dei suoi processi. Il referendum, dunque, per la paura di far passare in qualche modo molti che sarebbero andati a votare il referendum sul nucleare, quindi avrebbero potuto anche votare il referendum sul legittimo impedimento, per questo, scrive la stampa, la cosa migliore era disinnescare la bomba. Non è un caso che sia stato Palazzo Chigi a premere per la presentazione dell'emendamento che ha chiuso la nuova era atomica in Italia, presentazione della quale erano a conoscenza solo Berlusconi, il ministro dello sviluppo Romani e Giulio Tremonti. Ad esempio, la responsabile dell'ambiente Prestigiacomo non ne sapeva niente. E questa è una lettura anche per Repubblica, quella mossa anti-quorum per evitare la bocciatura del legittimo impedimento. Pagina 3, questa è l'analisi. E così, per la verità, il Corriere invece si interroga sul fatto che l'abolizione del referendum, saltando, diciamo, chiudendo l'era nucleare, non è così scontata. Il Corriere infatti dice: attenzione, l'abolizione del referendum non è una decisione ovvia. Alla fine sarà la Corte di Cassazione a decidere che fare, ovvero se questo emendamento presentato ieri dal governo sarà in grado di abolire oppure no la consultazione referendaria sul nucleare fissata per il 12-13 giugno. C'è un ufficio apposta nella Corte di Cassazione, è l'ufficio centrale per il referendum, è lo stesso che vaglia l'ammissibilità di quesiti, la validità delle firme. Tra l'altro la stampa su questo intervista anche un costituzionalista, Cesare Mirabelli, a pagina 3 dice: guardate che spetta alla Cassazione stabilire se il quesito decade. Sarà proprio questo ufficio centrale per il referendum, saranno loro i giudici della Cassazione a decidere se le modifiche di legge siano sufficienti a travolgere l'interesse per il quesito referendario. Un passaggio che non è affatto automatico. In passato vi sono stati diversi casi in cui si è sospeso in estremis un referendum, ma spetta comunque ai giudici. Per il momento si parla di sospensione. Dunque, l'opposizione accusa: è stato fatto tutto questo, una manovra per far saltare il referendum sul nucleare e quindi fare abbassare anche presumibilmente il quorum di coloro che si presenteranno agli altri referendum, tra cui quello del legittimo impedimento. Staremo a vedere. Il ministro Matteoli, in intervista al Messaggero, smentisce assolutamente questa lettura, dicendo: chi vuole va a votare e ci andrà, non c'è nulla che possa bloccare chi ha intenzione di votare sugli altri referendum. L'altro tema che trovate molto sviluppato sui giornali è quello della campagna elettorale, con questa vicenda che pare conclusa, a meno nel passo indietro annunciato da questo avvocato Roberto Lassini, quello che si è autoaccusato per i manifesti via le BR dalle procure. In realtà sui giornali sembra che non si parli d'altro, almeno per quel che riguarda le reazioni politiche. Beh, l'autore dei manifesti ha detto: sono pentito, dopo una giornata di grandi consultazioni. Ieri è intervenuto pubblicamente solo a Radio 24, La Zanzara con Giuseppe Cruciani. Sono pentito, ha fatto una lettera di scuse a Napolitano. In realtà c'è tutto da leggere con attenzione alcuni articoli che, insomma, fanno pensare che la vicenda non sia per nulla chiusa. Beh, intanto prendiamo il Giornale, che insomma è il primo che ha intervistato questo Lassini che si è autoaccusato. Guardate il titolo del Giornale di prima pagina: follia a Milano, centrodestra kamikaze. E sentite l'editoriale di Alessandro Sallusti: la Moratti minaccia di ritirarsi, il candidato anti-PM si dimette. Letizia Moratti, al termine di una folle giornata, è stata accontentata. Speriamo che lo siano anche gli elettori che tra pochi giorni dovranno eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio. Ovvio che tra i magistrati non ci sono infiltrati delle BR, meno ovvio era scaricare malamente e ipocritamente un cittadino vittima della malagiustizia quale Roberto Lassini, che sia pure attraverso una sciagurata provocazione ha voluto urlare in faccia alla Procura di Milano la sua rabbia per gli abusi dei PM. A mio avviso, scrive Sallusti, Lassini è moralmente compatibile con una lista PDL più di quanto lo siano molti altri che pure ci figurano. Credo che la Moratti abbia sbagliato a porre la questione pubblicamente in questo modo. Speriamo abbia fatto bene i conti. E insomma, parole molto pesanti, anche di critica al sindaco di Milano che si ricandida. E infatti pare che ci sia stata una conversazione molto molto tesa tra Letizia Moratti e Berlusconi ieri. La conversazione è stata del tipo o me o lui da parte della Moratti, con la Moratti che diceva: guarda presidente, che questa vicenda danneggia anche te. E una telefonata che il Corriere ricostruisce a pagina 5, molto tesa, nella quale Berlusconi alla fine ha accettato questa vicenda, ma come scrivono i vari giornali, in realtà Berlusconi l'ha accettata controvoglia. A pagina 7 di Repubblica, il Cavaliere preferiva la linea dura, meglio se fosse rimasto al suo posto. Quel Lassini avrebbe fatto bene a non dimettersi, fosse dipeso da me. Così, in un retroscena di Carmelo Lo Papa, inizia e viene attribuita questa a Berlusconi, questa frase, ma guardate che non è solo Repubblica, anche il Giornale, come detto, ha fatto questo articolo con Sallusti dicendo la Moratti ha sbagliato a porla così. E guardate a pagina 2 la telefonata di Silvio al candidato anti-PM, cioè pare che Silvio Berlusconi abbia addirittura chiamato l'avvocato Lassini, dicendo: comprendo le tue posizioni, le toghe gli hanno stravolto la vita come a me. E anche Vittorio Feltri, in prima pagina di Libero, fa un articolo in cui dice: questa è la mia posizione personale, può darsi che qualcuno in redazione non sia d'accordo, ma se ne farà una ragione. La vicenda la riassume Vittorio Feltri e poi conclude: d'accordo, ha sbagliato Lassini a tirare in ballo le BR, ma quante storie. Il capo dello Stato aveva il dovere di dedicargli una ramanzina? Ma di certo, visto che gliel'ha dedicata, poteva anche ricordare che l'errore di Lassini è comunque meno sgradevole di quello patito da lui per la negligenza di coloro che ora si stracciano le toghe per il suo manifesto. Il titolo sotto l'editoriale di Vittorio Feltri è: hanno cacciato un innocente. Volete, giusto per chiudere questa vicenda, leggere come la pone Ugo Magri, retroscenista principe per La Stampa, per Berlusconi? Sto malissimo. Questo virgolettato attribuito con l'umore a terra a Berlusconi. La voce che è un lamento. A metà mattina il Cavaliere viene informato: tra poco la Moratti annuncerà che o lei o Lassini. E Silvio, al telefono con un amico di quelli veri, si lascia andare. Ecco, vedi? Mi fanno intorno terra bruciata. Insomma, un Berlusconi che, Ugo Magri scrive, nell'ora più buia, lasciato solo dai fedelissimi. Sto malissimo, mi fanno intorno terra bruciata. Un Berlusconi definito arrabbiatissimo con l'out della Moratti e la posizione che lui dice Lassini avrebbe dovuto tenere, cioè quella di tenere duro. Oh, sulla politica cosa c'è di altro? C'è il fatto che torna. Tre giorni fa era sul Secolo XIX come indiscrezione, ora viene affrontata sia da Repubblica ma anche da Libero l'idea di una legge elettorale che pare ormai pronta, potrebbe essere presentata oggi o domani per dare un premio di maggioranza anche al Senato. Libero la pone così: è pronta la legge Ammazzafini, cioè una legge per ammazzare il terzo polo, una legge elettorale. Torna il tema del voto anticipato a ottobre. Il Corriere della Sera fa sapere che non solo ora dal PD, dall'opposizione, ma anche un Giuliano Ferrara, che è sempre ben informato quello che succede a Palazzo Chigi, ieri sul Foglio ha scritto: c'è aria, tira aria di elezioni. E per quel che riguarda le elezioni amministrative, le elezioni amministrative, c'è qualche sorpresa nei candidati che hanno scovato sia il Fatto Quotidiano sia il Riformista. Allora, per quel che riguarda le elezioni amministrative, il Fatto Quotidiano è andato a vedere un po' dei candidati, scoprendo che molti dei candidati, alcuni candidati che sono citati con nome e cognome, hanno qualche problema con la giustizia a vario titolo. A pagina 5, un'intera pagina, Puglia, il PD candida Mazzarano, ma non era sospeso per tangenti? Questo è il titolo con un articolo di Pierluigi Cardone, sarà capolista a Massafra, la sua città, colui che, secondo un verbale, Giampaolo Tarantini, colui al quale Giampaolo Tarantini disse di avere dato dei soldi in presunte tangenti, e dice il Fatto Quotidiano, ma come? È capolista al PD alle elezioni comunali a Massafra, sua città natale in provincia di Taranto. E poi sotto un altro articolo di Enrico Fierro e Lucio Musolino, si ripresenta il consigliere con la pistola. È un focus su Reggio Calabria, dove c'è per esempio il candidato del PDL Tonino Serranò, premiato dalla politica dopo che i carabinieri lo hanno filmato con una pistola in mano mentre era in compagnia di un soggetto ritenuto vicino alla cosca Serraino. Oppure l'altro consigliere comunale del PDL, Michele Marcianò, che in questa tornata elettorale corre per la provincia, parla direttamente con i boss, denuncia il Fatto Quotidiano quando parla con il latitante Cosimo Alvaro. Sempre alla provincia si ricandidano Francesco Barbieri, ex sindaco del San Ferdinando, sciolto per infiltrazioni mafiose, Roy Biasi, rinviato a giudizio per peculato, Gaetano Rao, denunciato nell'83 per associazione mafiosa, nipote del boss deceduto Giuseppe Pesce. E poi candidatura a sindaco di Demetrio Arena, che ha il compito di proseguire sulla strada del tanto decantato modello Reggio, un modello che ha sacrificato le casse comunali in dissesto sull'altare di una città cartolina. E insomma, fanno nomi e cognomi sul Fatto Quotidiano di persone che hanno, ripeto, a vario titolo, problema con la giustizia. Mentre il Riformista scova, ha scovato, e c'è tutta un'intervista su chi si candida al Comune di Napoli, una curiosità, Cristiana Sinagra, che magari dirà poco a molti, è colei che ha avuto un figlio da Diego Armando Maradona, forse ricordate, un figlio riconosciuto dal Pibe d'Oro dopo tanti anni. Cristiana Sinagra, la ragazza napoletana che 25 anni fa ebbe un figlio, Diego Armando Junior, la dama bionda del Pibe d'Oro, oggi si candida a sostegno di Lettieri come capolista nelle liste della DC, Terzo Polo di Centro. E vabbè, insomma, c'è spazio anche per Cristiana Sinagra a Napoli. Allora, riprendo in mano il Sole 24 Ore per fare un focus sulla questione economica, dopo che le imprese con Confindustria, ancora con il direttore generale Galli, hanno fatto quello che il Corriere definisce a pagina 12, un attacco sulle riforme, bene il rigore, ma una scossa deludente. Ma ieri ha parlato il ministro dell'economia Tremonti, lo ha fatto davanti ai senatori in audizione, e ha parlato, come scrive il Sole 24 Ore in prima pagina e poi a pagina 3, di una necessità di una manovra dello 0,5 del PIL per ogni anno. Lo ha detto appunto Tremonti. Questa manovra sarà nel 2013-2014, la correzione dei conti pubblici va dunque fatta, sarà come minimo dello 0,5% per due anni nel 2013-2014 appunto, quella richiesta da Bruxelles, ha fatto sapere Tremonti, è tra le più basse al mondo, verrà fatta ma per il prossimo biennio e non in questo biennio. Così incalzato dalle domande dei senatori ha risposto Tremonti, chi gli chiedeva sulla possibilità di correzioni più dolorose che potrebbero superare i 30 miliardi, sfiorare i 35 miliardi, pari al 2-3% del PIL, il ministro ha osservato che l'Italia è in linea con gli altri stati e non risulta che altri paesi europei abbiano fatto già adesso correzioni per il 2013 e 2014. Insomma, però la correzione dei conti va fatta, ma dice Tremonti molto meno di altri. Allora, faccio solo un accenno a tutta la vicenda di Arrigoni, Vittorio Arrigoni, ucciso nei giorni scorsi da un comando di salafiti nella striscia di Gaza, oggi tornerà la salma in Italia, ieri c'è stato un blitz finito nel sangue per cercare gli assassini da parte di Hamas. Faccio solo un accenno perché ne parleremo, poi alle 8:20 dell'intervista avremo la madre di Vittorio Arrigoni, che è anche sindaco, nostra ospite. Una vicenda di cronaca che trovate molto sviluppata sui giornali è la libertà data per motivi di salute al terrorista nero Concutelli. con Cutelli accusato dell'omicidio, accusato di 3 omicidi per la verità, prima di un giudice, il giudice Occorsio, e poi in carcere, è stato condannato anche perché una volta entrato in carcere ha ucciso anche loro esponenti della destra, perché del terrorismo di destra, perché potevano parlare e rischiavano di collaborare per alcune stragi. Non mi pento di nulla, questa è la frase che gli è stata attribuita e che ha sempre detto. Secondo il Messaggero, sono felice di poter stare tra amici, da qui posso vedere il mare anche se sono un amante della montagna. In realtà comunica attraverso la tastiera del computer, viene nutrito da un sondino dopo 3 ictus, insomma, lasciato per gravi motivi di salute. Ha fatto molto discutere la frase del nipote del giudice Occorsio, si chiama Vittorio come il nonno, 23 anni, che ha detto: avrei dato a Concutelli la pena di morte. Un tema che fa molto discutere, tanto che il figlio del giudice Occorsio, e dunque il padre di Vittorio, Eugenio Occorsio, manda una lettera che viene pubblicata in prima pagina della Repubblica. È una bella lettera che vi segnalo, non c'è tempo per leggerla. Figlio mio, non dimenticare, ma senza odio. Quando arrivano notizie come quella della liberazione di Concutelli, nella mente si scatena un turmine di emozioni spesso difficilmente controllabili. Una su tutte è il dolore, che si ripropone lancinante, intollerabile, può sfociare nella rabbia. In una reazione altrettanto irrazionale come il comportamento che l'ha generata, così succede che mio figlio, Vittorio, come il nonno, 23 anni, si abbandoni sulla scia dello sconcerto ed espressioni improvvide e insensate, come addirittura l'invocazione della pena di morte per Concutelli. Siccome Vittorio Junior era un ragazzo sensato, riflette sulle cose, ho cominciato subito a spiegargli perché nella nostra famiglia non devono esistere animosità e spirito di violenza. Occhio per occhio non è una regola, è l'opposto delle regole. Così inizia questa bella lettera di Eugenio Occorsio, il figlio del giudice, che si rivolge a sua volta a suo figlio Vittorio, il nipote del giudice, che ha chiesto per Concutelli la pena di morte. Ci dobbiamo fermare qui perché non c'è spazio per nulla, anche se le segnalazioni altre ce ne sono, molto interessanti. E va bene, il giornale radio e poi ripartiamo.